a caso, madama, la notte ti chiama, madama ti chiama, din din, din din, in due passi da quella puoi gir. Vien poi l'occasione e vuolmi il padrone, e vuolmi il padrone, don don, don don, in tre soldi lo farò a servire. Oh!